prendere un grandissimo scrittore, Jean-Claude Izzo, che racconta una Marsiglia nostalgica, crepuscolare e anche decadente, e poi invece un reporter, quello che consuma le scarpe sul terreno e ce la racconta di prima mano, e poi un analista, un criminologo, che ci spiega cosa c'è dietro alla freddezza di quei numeri, di quei 13 omicidi da gennaio a oggi. Oh Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte nous partait l'indochine. Marseille, Marseille. Centre-ville, MARS, pas besoin de te présenter ma vie. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vitre. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise. E le due facce di Marsiglia, quella di Leo Ferré e quella di Kenny Arcanà, sono un po' il simbolo della puntata di oggi. Perché? Perché la stampa francese ha dato ampio risalto, in particolare devo dire Le Monde, a un'ondata di omicidi, a una sequela che da gennaio ha lasciato sul campo 13 morti, regolamenti di conti, assassini appunto, traffico di droga, racket. Marsiglia, una città fuori controllo, titolava così Le Monde in prima pagina due giorni fa. E il giorno dopo, per rincarare la dose, un altro editoriale molto duro diceva: a Marsiglia la crudele impotenza del potere pubblico. La situazione della sicurezza a Marsiglia, che cosa sta accadendo? Proprio in quest'anno in cui si celebra Marsiglia come capitale della cultura, in cui sono arrivati fondi, grandi musei, grandi eventi culturali, e allo stesso tempo questo lato più oscuro, semplice bolla mediatica, cioè quella perversa attenzione dei giornalisti che ogni tanto, si sa, viaggiano anche sulla scorta emotiva di ondate di notizie, oppure un lato oscuro che lì esiste e che periodicamente emerge. E per pennellare un ritratto di una città che sì, sicuramente è pieno di chiaroscuri e di sfumature, allora mi affido alle impressioni di Izzo, il grande scrittore marsigliese, alla rabbia rap di questa scena hip hop così vitale, ma anche all'analisi fredda e misurata di chi guarda i numeri della criminalità, al cronista che coi marciapiedi li consuma, lì ci consuma le scarpe, allo storico che ancora una volta renderà il passato maestro di vita. Marsiglia non è una città per turisti. Non c'è niente da vedere. La sua bellezza non si fotografa, si condivide. Qui bisogna schierarsi, appassionarsi, essere per, essere contro, essere violentemente. Solo allora ciò che c'è da vedere si lascia vedere. E allora è troppo tardi. Si è già in pieno dramma. Un dramma atipico dove l'eroe è la morte. A Marsiglia, anche per perdere, bisogna sapersi battere. E dopo questo primo tratto di Jean-Claude Izzo, il libro è Casino Totale, con le inserzioni tutte jazz di John Coltrane e Miles Davis, partiamo dalla crudezza dei numeri, quella che invocava proprio Le Monde un paio di giorni fa. Ascoltiamo. Coi suoi 800.000 abitanti, Marsiglia ha in proporzione lo stesso numero di omicidi per droga di New York, che invece di abitanti ne conta 8 milioni. Da 10 anni a questa parte, il numero dei consumatori di stupefacenti arrestati è aumentato del 145%. Da inizio 2013 sono stati 19 i chili di cocaina sequestrati e una tonnellata invece l'hashish. Le vittime coinvolte in traffico di droga hanno tra i 18 e i 38 anni. La maggior parte di questi è disoccupata e solo un quarto dei non laureati lavora. Un terzo della popolazione marsigliese vive con meno di 832 euro al mese. La percentuale di persone che vive sotto la soglia di povertà nella seconda città più popolata della Francia è del 26%, rispetto ad una media nazionale del 15%. Per la prima volta in una città francese, ad eccezione di Parigi, il ministro degli interni e quello della giustizia hanno stabilito la creazione di una zona di sicurezza ad alta priorità nei distretti del nord di Marsiglia, che prevede, oltre a 230 poliziotti in aggiunta a quelli già esistenti, anche un prefetto speciale. In questi primi 8 mesi del 2013 sono già 13 gli omicidi consumati legati al commercio di droga. La polizia l'anno scorso ha anche sequestrato 300 Kalashnikov. Allora, questa è la fotografia che ci viene dalla città del sud della Francia. Per capirne di più abbiamo contattato Luc Leroux, che è un cronista della Provence, che è il quotidiano più diffuso nella zona. La prima domanda che ho fatto a Luc è: cosa sta succedendo a Marsiglia? Il y en avait 19 à la même période l'année dernière. Il y a un vrai problème au niveau de la. E Luc Leroux dice: ci sono stati 13 regolamenti di conti, 13 omicidi da gennaio. C'erano stati 19 lo stesso periodo l'anno scorso. Dice: c'è un problema di criminalità, delinquenza di quartiere. Però dice: attenzione, Marsiglia non è la capitale del crimine. Presenta semmai una doppia faccia, quella di una città mediterranea che rinasce, è capitale europea della cultura del 2013, c'è turismo, musei aperti, una vita che cambia, c'è la faccia gioiosa e a fianco c'è l'altra faccia di Marsiglia. Però dice no, attenzione, e allude in qualche modo a Le Monde, non è la capitale del crimine. C'è il visage mediterraneo di Marseille e poi a côté de cela il y a ce problème de délinquance mais qui n'envahit pas la totalité de l'espace. Marseille n'est pas la capitale du crime, je le répète. En revanche, Marseille est une ville qui connaît. E prosegue Leroux, dice: al contrario, Marsiglia è una città che conosce una situazione economica e sociale come nessun'altra in Francia, e qui spiega la particolarità di Marsiglia. Dice: ci sono arrondissements, ci sono quartieri, quelli concentrici, che vivono sotto la soglia di povertà. Quartieri con metà dei bambini che non vanno a scuola a partire dai 10 anni e altri ancora dove il tasso di disoccupazione è al 50%. E questo ovviamente è motivo di sofferenza per i marsigliesi. Qu'il ne faut pas oublier, qui fait souffrir les Marseillais. Alors ces règlements de compte, ils sont dramatiques parce qu'ils touchent des jeunes. E prosegue, dice, questi regolamenti di conti tra bande rivali dedite al traffico di droga sono drammatici perché toccano giovani ragazzi da 18 a 20 anni, anche minorenni, uccisi da proiettili, a volte di armi automatiche, lo sentivate prima, no? Sono stati ritrovati parecchi Kalashnikov. E sono ragazzi che a una certa età, per avere qualche centinaio di euro in tasca, entrano in questo mondo, ma spesso non hanno altra scelta che diventare banditi e poi non riescono più a uscire da quel tunnel e non riescono più a trovare un lavoro, a studiare, a sposarsi, avere dei figli, insomma una vita normale per loro è impossibile. C'est des jeunes qui à 18 ans n'ont pas fait le choix du banditisme et de la délinquance, c'est des jeunes qui auraient pu un jour dire bon ben je vais sortir de ça, je vais me mettre à travailler, je vais faire une formation, je vais me marier, je vais avoir des enfants et vivre normalement. C'est ça qui est dramatique. E il cronista di Nera de la Provence prosegue dicendo: questa cosa è drammatica, muoiono giovani che non hanno altra scelta se non diventare banditi. E dice: è diverso da quello che accade nel centro città, dove ci sono regolamenti di conti tra balordi, magari gente ubriaca la sera, magari esce, spunta persino la pistola, però questo è un altro aspetto di Marsiglia e Marsiglia non può rimanere indifferente a tutto questo. Non si può accettare che giovani di 20 anni muoiano così. Allora ci sono questi due lati di Marsiglia, ma chi dice e ribadisce che Marsiglia è la capitale dei regolamenti di conti non ha alcun senso. Cessons de dire Marseille, ville du crime, Marseille, capitale. E poi conclude dicendo: il governo deve affrontare questo male partendo dalle radici, deve lottare contro la delinquenza che impoverisce la vita dei cittadini e portare anche risposte sul piano di alloggi, ad esempio, della cultura, le infrastrutture, l'educazione. Leroux ricorda che sui 100 quartieri più poveri della Francia, 25 sono a Marsiglia. Ma nella stessa città ci sono i quartieri più ricchi di Francia. E quindi, conclude, è la città con più disuguaglianza in tutto il paese. E tutto cela funziona insieme, tutto cela risuona, bien évidemment. J'élimine, barge la rime, t'assume plus, tu demandes même qu'est-ce qui t'arrive ici, c'est Paris, jusqu'à Marseille. E l'altra domanda era cercare di capire se questi due aspetti, questi due lati di Marsiglia, questi due mondi diversi comunicano in qualche modo o sono separati. À la différence de beaucoup de villes en France, comme Paris, comme Bordeaux, comme Toulouse, il n'y a pas de, il n'y a pas cronista ci racconta che la differenza di questa città rispetto ad altre città francesi, Parigi o Bordeaux, è che non ci sono delle banlieue, non c'è la periferia, è un'enorme città senza periferia. È vero, dice, ci sono i quartieri a sud ricchi, a nord quelli più poveri o dietro al porto, però tutti si sentono marsigliesi, ricchi e poveri, dice, e si mette in gioco anche lui stesso, no? Dice, siamo tutti noi marsigliesi. Però dice, siamo in una città che vive una profonda frattura, e anche geograficamente la frattura è visibile, ma il vantaggio è che apparteniamo alla stessa città. Ciò che manca, ciò che i politici non capiscono, è che va aiutato lo sviluppo dei quartieri nord, che sono per esempio senza trasporti, non c'è la metropolitana, ci vuole un'ora per arrivare in centro, sono quartieri abbandonati. Bisogna dirlo, dice Luc Leroux, non c'è metro, i bus funzionano male, i marsigliesi lì si sentono abbandonati. Abbandonnés e les Marseillais qui vivent là se sentent abbandonnés. Nessun luogo è lontano. Buona serata ancora una volta, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Questo è il magazine di Nessun Luogo è Lontano, l'appuntamento nel weekend, nel fine settimana, che raccoglie il meglio, la sintesi di quello che è accaduto la settimana scorsa dal punto di vista della grande attualità internazionale. Storie delle copertine, delle prime pagine dei giornali, quelle che leggete anche sulle agenzie, sui titoli di TG, storie anche un po' più nascoste, quelle che non leggete sui giornali italiani, ma che magari leggete su quelli francesi. È il caso di Marsiglia, che tante pagine ha occupato su Le Monde e non solo nelle settimane scorse, e lì vi riporto adesso. Marsiglia, porta d'Oriente, altro luogo, avventura, sogno. I marsigliesi non amano i viaggi. Tutti li credono marinai, avventurieri, compadri e nonni che hanno fatto il giro del mondo almeno una volta. Al massimo sono stati fino a Niolo o a Cap Croisette. Nelle famiglie borghesi il mare era proibito ai bambini. Il porto permetteva gli affari, ma il mare era sporco. Da lì veniva il vizio e la peste. Appena arrivava la bella stagione, ci si spostava a vivere all'interno. Aix-en-Provence e la sua campagna, i Mas e le Bastides. Il mare veniva lasciato ai poveri. E dai toni crepuscolari e malinconici di Jean-Claude Izzo, che così bene e efficacemente descritto quella Marsiglia ormai forse un po' datata, dico forse perché poi nell'ultima parte della trasmissione scopriremo che il passato di Marsiglia ci insegna tante cose e spiega il presente, da quelle pagine poetiche a pagine un po' più prosaiche fatte di suole consumate, quelle di Luc Leroux, che lavora appunto a Marsiglia, a cui ho chiesto se i quartieri più poveri sono poi quelli a più alto tasso di immigrazione. Sentite cosa precisa e che è importante. Oui, les plus pauvres, peut-être, parce que bien évidemment, les immigrés, les enfants d'immigrés comptent parmi les plus pauvres, parce que c'est pour eux que l'ascenseur social n'a pas fonctionné. C'est pas la notion d'immigré qui compte, c'est la notion. E dice sì, a nord sono i quartieri più poveri, certo c'è più alto tasso di immigrazione, ma dice non è la nozione di immigrato che conta, è quella di povertà. E dice quando lei vive con 700 euro al mese, dice sono molte donne sole ad esempio che vivono con figli, e immigrati o no vivono gli stessi problemi. E da qui ritorniamo al punto di prima, no? Marsigliesi, immigrati o no, sono tutti marsigliesi, ricchi o poveri. Ma ora dice stanno reagendo, gente, famiglie e mamme con i figli uccisi che manifestano, fanno proposte e chiedono a gran voce che ci si occupi di questi quartieri. Le donne, dice Luc Leroux, stanno alzando la testa, vogliono fondi per scuole, vogliono alloggi nuovi, educazione, trasporti, le cose devono cambiare. La cultura, il logement, l'éducation, qu'on renforce les écoles, les femmes redressent la tête. Les femmes disent il nous faut de la sécurité dans nos cités. E dice le donne chiedono sicurezza nella città, e poi dice e usa uno slogan credo molto efficace, ci vuole un piano Marshall per questi quartieri poveri di Marsiglia. Qualcosa di positivo sta accadendo, conclude Leroux, ma sono i cittadini che stanno reagendo a tutto ciò, non i politici che sono già impegnati nella prossima campagna elettorale. E chi si releva le manche per reagire a ça. Bien sûr, ça passera par les politiques. Allora, adesso l'ultimo affresco affidato a Jean-Claude Izzo su Marsiglia e poi cambiamo tema. A Marsiglia si chiacchiera. Il rap è solo questo, chiacchiere, niente di più. I cugini della Giamaica avevano trovato qui dei fratelli e chiacchieravano come al bar, di Parigi, dello Stato centrale, delle periferie scalcinate, degli autobus notturni, la vita, i problemi, il mondo visto da Marsiglia. Notre Dame veille, la pression tombe, les nuits s'éveillent, les mêmes qui dame que la veille blanche, cherche l'amour, fuit l'oubli, plein de fiel, certains ont de quoi faire péter, où jouent les mecs friqués. Marsiglia, oggi al centro di Nessun Luogo Lontano, capitale della cultura europea nel 2013, ma anche una lunga sequela di omicidi, regolamenti di conti, sullo sfondo il racket della droga. Forse non è una cosa nuova, ma è certo che Le Monde continua a rincarare la dose, perché vi dicevo inizio trasmissione che nei due giorni scorsi ha dedicato per ben due volte la prima pagina ai fatti di sangue che avvengono a Marsiglia. Allora, per capire meglio se, come dire, una bolla mediatica o se davvero c'è qualcosa sotto, abbiamo raggiunto anche Laurent Mucchielli, che è un sociologo e ha fondato l'Osservatorio regionale della delinquenza e dei contesti sociali a Aix-en-Provence. Conjugaison de deux phénomènes, hein. il y a une réalité criminelle, il y a une réalité du banditisme. E lui racconta, beh, allora, ci sono due fenomeni, c'è una realtà criminale fatta anche di banditi e ci sono i riflettori dei media e tutte le attenzioni politiche concentrate su Marsiglia. Dice, a partire dallo scorso governo, già due anni fa si è presa l'abitudine da parte del governo francese, ogni volta che c'era un morto, di venire qui e magari cambiare ogni volta il capo della polizia per far vedere che si faceva qualcosa. Questo da parte del Ministero dell'Interno. Où déjà le ministre de l'Intérieur avait pris l'habitude de venir presque à chaque fois qu'il y avait un mort faire une déclaration. E lui dice, questa è una vecchia abitudine. E cosa fanno i media, i giornali? Ovviamente allude anche alle Monde in particolare, ma non solo. Fanno la conta dei morti e aprono in prima pagina. Non dico che il problema non esiste, dice Mucchielli, ma i riflettori mediatici non fanno comprendere che problemi simili esistono, ad esempio, in tanti altri luoghi e coinvolgono anche altre città in Europa. Dice, ok, le cose che accadono a Marsiglia esistono, non sono eccezionali, non sono uniche, ma dice sono esagerate, cioè sono più forti che da altre parti. Ma non è vero che cose che da altre parti accadono qui non si vedono, questo non corrisponde a verità. Lui dice, i riflettori dei giornali, dei media, quando si accendono non pensano alla storia, e questo è, dice, un grosso problema per comprendere cosa accade a Marsiglia. Politiche mediatiche, se qu'ils sont enfermés dans l'urgence et qu'ils n'ont jamais de recul. Bon. E poi Mucchielli apre uno scenario su quello che è il passato di Marsiglia. Ascoltiamo. Un autre phénomène qui est venu renforcer encore ça, c'est le fait que Marseille est devenue une très forte terre d'immigration corse. E lui dice, un fenomeno che ha rafforzato la condizione attuale di Marsiglia è che è una terra storicamente di immigrazione corsa. C'è una storia, una tradizione di banditismo corso, dice Mucchielli, a partire dal periodo tra le due guerre. C'è stato un impiantarsi di quelle reti criminali corse che lavoravano sui casinò, sul gioco d'azzardo, la prostituzione, il traffico di droga. E quando è apparso il traffico di droga, evidentemente appariva molto lucroso anche alle reti criminali corse. E infine, però, sentite che cosa dice proprio in chiusura sul banditismo corso. Voilà. Bon, donc le banditisme corse, il n'est pas du tout mort en 1975 ou 16 ou je sais pas. E dice, il banditismo corso non è morto del tutto nel 1965, quando vi furono le grandi operazioni per abbattere la French Connection con quegli arresti spettacolari. Adesso si è fatto discreto, si occupa dei livelli superiori del traffico di droga, quelli più invisibili, mentre la manovalanza, quella per strada, i grandi banditi hanno capito che va delegato ai poveri, a chi? Magari spesso a quei giovani magrebini che campano la giornata e non riescono a riempirsi la pancia. Ultimissima notazione molto importante invece su quella che è la risposta da parte della polizia, e quindi le retate, gli arresti, eccetera eccetera. Sentite cosa dice, che è interessante. Più on met de policiers, d'action policière, eccetera, non plus on vient les déranger, perturber. Dice, più si fanno operazioni di di polizia, più si va, tra virgolette, a disturbare questo business. E cosa succede? Si rinforza la concorrenza tra i gruppi, perché il mercato diventa più difficile, si restringe, ci sono meno clienti e quindi le diverse gang lottano fra di loro e ci scappano ovviamente più morti. Marsiglia è stata contagiata dalla coglionaggine parigina. Sogna di essere capitale, capitale del sud, dimenticando che quel che la rendeva una capitale era il porto, incrocio di tutte le mescolanze umane, da secoli, da quando Protis ha posato il piede sulla spiaggia e sposato la bella Giptis, principessa ligure. E così Jean-Claude Izzo citava il porto di Marsiglia come elemento fondamentale, distintivo, elemento nevralgico. Chissà se la pensa così anche il mio prossimo ospite, che è Michel Peraldi, antropologo, direttore di ricerca presso il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica e membro del laboratorio LAM della Maison Méditerranée des Sciences de l'Homme de Aix-en-Provence. Spero di aver detto tutto. Professor Peraldi, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, lei si è occupato soprattutto... C'è un piccolo errore sulla ecco. mia storia di vita, perché adesso non sono più in Marsiglia, la MMSH, ma sono in Parigi. Ecco, benissimo. In un laboratorio che si chiama CADIS, all'École des Hautes Études. Ecco, e stavo per aggiungere che lei in passato però ha studiato parecchio, sì. ha lavorato parecchio a Marsiglia, ed è per quello sì. che l'abbiamo chiamato in causa, perché abbiamo sentito Izzo che diceva il porto è un elemento distintivo e fondamentale di Marsiglia. So che lei ha, come dire, una tesi particolare, no? sulla presenza di questo porto e quanto ha incondizionato e ha inciso sulla storia di Marsiglia. Una tesi no, ma sì, bisogna dire che il porto è un centro economico di commercio, anche perché tutta la città fa un po' di commercio sul traffico, sui traffici che passano sul porto. Quindi c'è da 200 anni c'è un'economia informale. Un'economia informale non è un'economia criminale, un'economia informale, quello che si chiama il commercio alla valigia, eccetera, che fa vivere una parte delle mondi popolari in questa città. E adesso penso che oggi questa economia informale del commercio alla valigia, del commercio dal basso, no? È stato eradicata della città per differenti ragioni, e adesso oggi non c'è più, il porto non è più un polmone economico della città, è un polmone economico nel senso che paga la tassa, che fa lavorare delle grandi imprese, ma un polmone che fa lavorare una parte delle mondi popolari di Marsiglia, no, questo è finito. E adesso penso che una parte della gente che lavoravano sull'economia informale adesso oggi sono sui traffici di cannabis, di piccole cose, eccetera. Cioè, un esempio molto facile sì. è quello delle macchine di occasione. Negli anni 80 non c'è una macchina di occasione che va in Africa che non passa, che non viene in Marsiglia. Sì. È quello che chiamo l'effetto district, no? Sì. Per fare un parangone bisogna dire che Carrara in Italia è il district del marmo, anche se non ci sono più tante marmi in Carrara, sì. tutto il marmo del mondo va in Carrara. E in Marsiglia era lo stesso sulle macchine d'occasione. Tutte le macchine d'occasione che andavano in Africa passavano per Marsiglia. E questo era il professor Michel Peraldi, la sua analisi su Marsiglia, l'avete ascoltata in sintesi. Mandate sul sito www.radio24.it, scegliete la puntata di venerdì scorso e troverete una analisi su quello che è lo stato dell'arte della città francese, così importante. Un laboratorio, è stato detto, un laboratorio di arte, società, culture, e anche per andare a risolvere i problemi di criminalità che la affliggono. Tempo quasi scaduto, però ho il tempo per ringraziare voi per essere stati all'ascolto, Mire Lucchetti, Isotta Scenna in redazione e Valeria Bernardi, che ha dato ritmo a questa versione del weekend di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è lunedì ore 13:15 con Giampaolo Musumeci, con me, e allora di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano.